Rotte sonore. Suoni dai percorsi migranti. Domenica 14 maggio 2017 siamo di nuovo negli studi di Radio Storia del Capo con Rotte Sonore, ma questa sarà una puntata un po' speciale. Non abbiamo dei migranti veri e propri, in realtà sono migranti anche i nostri ospiti di oggi, ma non vengono da un altro continente, vengono da regioni abbastanza vicine, ma hanno parecchie storie che invece vengono da molto molto lontano. Benvenute Alessia e Letizia. Grazie a voi per l'invito. Siamo qua per raccontarvi un progetto che è frutto di una creazione collettiva dal titolo Fiabe Migranti. Non so, Alessia, vuoi cominciare tu a raccontarci un po' come è nato il progetto? Allora, è un progetto che arriva dalla Grecia, da Salonicco e dalla periferia di Salonicco, ed è, come dicevi, un progetto collettivo, nato però in realtà da un'idea di una ragazza, fondamentalmente due, Deborah e sua sorella, Bia. E Deborah è una ragazza brasiliana che ha viaggiato molto, anche lei ha una lunga storia di migrazione, e da un annetto, forse anche più, vive praticamente a Salonicco. A Salonicco ha iniziato a collaborare con varie realtà autogestite, e con lo spazio Micropolis e con altre piccole realtà di cui poi magari ci parlerà Letizia, perché lei è stata lì per un mesetto, ha conosciuto da vicino tutte le realtà di cui parleremo. E appunto ha iniziato a collaborare con queste realtà e è venuta a contatto con molte delle famiglie migranti che sono ospitate in alcuni dei campi profughi che si trovano alla periferia di Salonicco. Deborah da lì ha avuto un po' l'idea di provare a sviluppare dei laboratori con bambini, per bambini, di invenzioni di storie, dei laboratori di fantasia. E questo perché? Perché diciamo che all'interno di questi spazi, di queste realtà autogestite, in particolare lo spazio Micropoli, ci sono varie attività completamente autogestite, organizzate dalle stesse famiglie migranti che partecipano alla gestione dello spazio, e tra le tante attività ci sono anche delle vere e proprie reti di sostegno a queste famiglie, in particolare a quelle più disagiate o comunque a quelle che hanno dei bisogni particolari, perché magari bambini piccoli, anziani, disabili, eccetera. E quindi diciamo che tra tanti tipi di attività c'è proprio questo sostegno attivo anche per bisogni materiali di queste famiglie, e tante di queste famiglie hanno dei bambini, per cui da lì è nata l'idea di Deborah di provare a coinvolgere tutti i bambini che un po' ha visto passare in questi spazi. Lei quindi ha svolto nel giro di 2 o 3 mesi questi laboratori di storie e ha raccolto delle storie, poi magari nello specifico vi racconteremo poi come sono stati svolti questi laboratori. Mm-hmm. E poi da lì ha avuto l'idea di farne un vero e proprio progetto, possiamo dire internazionale, nel senso che Deborah aveva tantissimi contatti, un po' di tanti amici, compagni sparsi un po' per l'Europa e altrove, e ha pensato bene di contattare tutte queste persone parlando di questa idea che aveva, e cioè l'idea di tradurre queste storie che ha raccolto in tantissime lingue e chiedere poi l'aiuto, il sostegno, la partecipazione più che altro di illustratrici per illustrare le storie raccolte dei bambini. Quindi diciamo che poi ha trovato moltissime persone entusiaste del progetto, e quindi da lì è nata questa collaborazione per la creazione di questo libro Fiabe Migranti. E l'idea chiaramente, anzi neanche troppo chiaramente, perché poteva essere diciamo un progetto dalle tante vocazioni, però l'idea è stata quella di autoprodurre questo libro per poi usare il ricavato proprio per questi progetti di sostegno alle famiglie in Grecia, e quindi di dare il ricavato agli spazi che si occupano, autogestiti, che si occupano di questo tipo di sostegno. Questo, insomma, per fare un sunto molto breve, è stato ci sono stati dei mesi di lavoro su questo libro, perché chiaramente coordinarsi tra di noi, tra chi ha tradotto, chi ha raccolto, chi ha illustrato le storie, farlo, editare il testo e poi autoprodurlo, perché appunto non c'è una casa editrice dietro, tutto questo ha richiesto vari mesi, insomma, di collaborazioni, poi tutto molto a rilento perché è tutto fatto dal basso, però ci siamo riusciti, ecco. Quindi il libro lo abbiamo presentato a Bologna quasi un mesetto fa, mm-hmm. ed è stata un po' la prima presentazione alla Modo, giusto? A Modo InfoShop in via Mascarella, sì, ed è stata la prima vera presentazione, e poi abbiamo in programma altre presentazioni e insomma altri eventi. In generale però il testo è disponibile online al momento, ecco. Su Amazon, esatto, perché è un po' l'unica piattaforma, purtroppo, per fortuna, perché anche i contro sono molti, però i pro sono un po' legati al fatto che è l'unica piattaforma che permette di, diciamo, di avere lo stesso libro disponibile in tantissime lingue, nello stesso formato, e che quindi permette di ordinarlo da tantissimi posti diversi, ecco. E per facilitare la vendita, no? Certo, anche quello, anche per avere una cassa comune poi, esatto, tra i vari paesi, insomma, questa è un po' l'idea. Bello. Ascolta, puoi farci un esempio dei progetti che verranno realizzati con questi? Allora, questa è una bella domanda, perché allora al momento nei mesi passati, cioè nei mesi invernali, questi campi di cui parliamo, Basilica, Oreo Castro e La Cadica, sono stati praticamente sgomberati, nel senso che a causa del freddo pungente le persone sono state ricollocate in degli appartamenti, però era una misura provvisoria. Infatti già sono stati riempiti di nuovo. E l'idea di Deborah era sostenere questi, come dicevo, questi progetti che in qualche modo provano a trovare delle soluzioni abitative alternative per le famiglie che più hanno bisognose, particolare bisogno. Mm-hmm. Cosa significa? Farsi da tramite per farle, diciamo, sistemare in casa di altre famiglie greche, o provare a contrattare alloggi a basso prezzo. Ora Deborah è in questo circuito qui, ad esempio. Non parlerò molto di questo progetto perché ce l'ho appena accennato e perché è un po' tutto in forse, quindi però okay. L'idea era, se entro giugno, luglio riusciamo a raccogliere un tot di soldi, insomma abbastanza, insomma, non pochi soldi, però la sfida è alta, però ci crediamo. C'è in ballo ad esempio un contratto aperto con dei proprietari per avere degli affitti a costi molto molto bassi per moltissime famiglie. Beh, per cui questa è una delle idee. Chiaramente sarebbe una contribuzione, perché è impossibile pensare che, diciamo, che solo con i ricavati del libro si riesca a fare cose, ecco, impensabili, però ci si prova. L'altra idea è quella di sostenere comunque altri piccoli progetti anche legati dentro questi spazi, legati magari ad attività interne che possono essere di sostegno sociosanitario, psicologico, eccetera. Comunque, diciamo che l'idea generale era mandare i soldi a questa realtà, che in primis è stata quella un po' con cui Deborah ha collaborato più da vicino. Sì. E poi vediamo anche un po' quanti soldi riusciamo a raggiungere. L'idea però era mantenere una trasparenza anche su questo, per cui avevamo in mente, insomma, fra un paio di mesi, quando avremo i primi bilanci del raccolto, di pubblicare i dati e di, insomma, bello, spiegare cosa, in base al ricavato, cosa, quale progetto si va a finanziare, sia più fattibile, come si, esatto, un po'. Questa era l'idea. Ok, bello, grazie. Letizia. Allora, io ho conosciuto il progetto perché sono stata appunto a Salonicco un mese a settembre, e a Salonicco ho conosciuto Deborah, che mi ha appunto parlato della volontà di fare questo libro. E quindi ci siamo organizzate appunto in primis per la traduzione, che abbiamo curato io e Alessia per quanto riguarda la versione italiana, e poi durante questo mese ho avuto l'occasione sia di vedere i campi profughi, alcuni di questi, da cui provengono anche i bambini che hanno scritto, che hanno inventato e le storie raccolte nel libro, e quindi è stata anche un'occasione per capire effettivamente quale sia il reale bisogno di avere questi fondi per poter trovare delle soluzioni alternative appunto ai campi, che sono sicuramente dei contesti molto, molto difficili, e soprattutto nel caso dei bambini che vi abitano in questo momento, sono dei contesti che creano delle dinamiche anche piuttosto negative su molti fronti, sia per quanto riguarda il piano della socialità, sia proprio anche dal punto di vista sanitario, medico per esempio. E poi sono tornata a Salonicco a Capodanno e ho avuto l'occasione di conoscere proprio alcuni dei bambini che avevano inventato queste storie, ed è stato molto bello vederli con in mano i loro libri, molto, molto orgogliosi di avere questa produzione loro stampata e tra l'altro illustrata appunto da qualcuno che aveva letto e era stato ispirato dalle loro storie. Tra l'altro questo libro, scusa se ti interrompo, è veramente bello. Le illustrazioni sono in acquerello principalmente, ma anche vedo a matita, a cera. Ci sono molto diverse in realtà. Sono molto variegate, no? Perché sono varie illustratrici. Sì, sono cinque illustratrici, di cui due italiane, Ambra Guerriero e Marina Girardi. Sulle illustrazioni sicuramente un po' strano all'occhio di un editore di testi per bambini, perché comunque è un libro molto molto eterogeneo, nel senso che anche le illustrazioni sono completamente diverse, le cinque illustratrici hanno stili molto diversi, però abbiamo scelto di non intervenire molto su questo, come anche proprio sulle storie dei bambini, sul loro processo creativo, perché ci sono storie più lunghe, storie molto brevi, per cui l'idea era proprio quella di lasciare le cose così come venivano, intervenire poco, formattare poco, per cui non avevamo un'identità prestampata, perché bisognava rispettare dei canoni rispetto ai testi per bambini, insomma, per cui è un prodotto, sicuramente un prodotto, chiamiamolo così, è un libro molto poco standard, ma molto originale, direi, ecco, soprattutto per bambini, però è anche questa un po' una sfida. Poi oltre al fatto di, cioè oltre un po' all'idea generale che c'è di fondo, cioè l'idea che siano dei bambini a scrivere storie per altri bambini, che è già di per sé una cosa strana, ecco, perché sì, chiaramente di solito le storie per bambini sono scritte da adulti, per cui poi l'idea che questo libro possa finire nelle mani più dal basso di così non si può. Ah, certo. No, l'idea che questo libro possa finire nelle mani di bambini di Bologna, Milano, Francia, Parigi, eccetera, in qualsiasi posto d'Europa o non, e che questi bambini possano leggere storie che arrivano da percorsi così lontani e distanti, già era per noi una cosa molto bella. E non so, Letizia, ci vuoi raccontare del processo creativo a cui hai assistito, hai conosciuto queste due bambine, insomma, siamo curiose. Sì, allora, Deborah è andata in un paio di casi nei campi dove alcuni di questi bambini stavano ancora vivendo, mentre in altri casi i laboratori si sono tenuti appunto a Micropolis, che è questo spazio autogestito in centro a Salonicco, e con l'aiuto di un ragazzo, anche lui rifugiato a Salonicco, di egiziano, e sono riusciti a portare avanti questi laboratori, per cui un po' in inglese nei casi in cui i bambini già lo parlavano, in altri casi appunto con la traduzione da parte di Ramis e in alcuni casi di altri rifugiati presenti durante i laboratori, soprattutto per quanto riguarda il curdo, perché chiaramente i bambini curdi in alcuni casi non parlano arabo. Perché, non so se è stato detto, i bambini sono per la maggioranza siriani o curdi siriani. O curdi siriani. Esatto, okay. Che è fondamentalmente poi anche la provenienza più presente nei campi profughi in questo momento in Grecia. E quindi poi i laboratori si sono tenuti sia con discussioni tra Deborah e i bambini, in alcuni casi i bambini avevano già delle storie in mente, erano piuttosto convinti insomma già dell'idea che avevano, in altri casi magari iniziavano raccontando delle storie che in realtà sono storie già sentite, perché è chiaro che uno prende ispirazione dai racconti che ha già letto in passato. Giustamente. E quindi quando le cose si mettevano così, Deborah procedeva per domande, e quindi attraverso le domande, il dialogo con i bambini, in realtà emergevano storie completamente diverse, perché nelle loro teste ci sono un sacco di idee e devono essere solo, insomma, tirate fuori. E in altri casi anche attraverso dei disegni, si è partiti dai disegni per poi arrivare all'elaborazione della storia per iscritto. Magari nei casi in cui i bambini erano analfabeti. Sì, anche, no? Più piccoli, esatto. E ovviamente si sono verificati una serie di episodi anche molto divertenti rispetto appunto a come nelle teste dei bambini le storie spesso sono in realtà influenzate da quelle che hanno già letto, e però in realtà nella loro testa c'è tutt'altro, per cui ad esempio Deborah ci ha raccontato una serie di episodi, e uno in particolare molto, molto carino, per cui un bambino aveva iniziato a raccontare una storia per cui c'era un re che costruiva un palazzo, e Deborah allora chiede al bambino: ma il re cosa fa? E costruisce lui il palazzo? E il bambino ha risposto: no, non è il re a costruire il palazzo, ci sono dei sudditi che lo costruiscono. E allora Deborah ha chiesto al bambino: ma quindi il re cosa fa? Niente. E ma quindi il re serve? No. No. Il bambino ha detto: lo togliamo il re dalla storia. E quindi sono anche nate delle storie molto poco convenzionali, per cui sì, in alcuni casi ci sono delle principesse, ma nella maggior parte no, non ci sono principesse, non ci sono re, ci sono dei personaggi femminili molto, molto particolari e anche lontani dall'idea che noi abbiamo molto spesso della visione della donna, soprattutto nel mondo musulmano. Mm-hmm. E quindi anche per questo troviamo che, insomma, il risultato finale sia un risultato molto particolare, e di cui però siamo molto felici, perché appunto è stato un modo per dar voce a questi bambini e abbiamo fatto delle scoperte belle. Beh, forse perché appunto c'era tutta la dinamica del chiedere: ma perché? No? Uno ha un'idea, no? Che viene da storie sentite, allora un grande dice: ma perché dici questa cosa? Allora, no? Il bambino ragiona e vengono fuori cose anche molto inaspettate. Per non parlare anche della soddisfazione dei bambini quando prima accennavi della prima presentazione dell'edizione greca, cioè a cui hanno assistito, per cui vedere il libro con le loro storie, e soprattutto ad esempio uno dei bambini è stato ricollocato poi con il progetto le quote, sì, di ricollocazione così in Olanda, e ci raccontava Deborah che aveva sue notizie dall'Olanda e si era portato con sé questo libro. Esatto. Che sarà anche in qualche modo un ricordo del suo percorso. Diciamo che infatti la cosa bella di questo progetto è che che è un progetto in qualche modo che valorizza la creatività, le cose belle, la fantasia, gli stimoli positivi, per cui non è difficile per noi spiegarlo, però spesso quando si parla di un progetto con i bambini dei campi profughi eccetera, iniziano subentra tutto un linguaggio anche proprio progetti umanitari, solidarietà, che spesso richiama delle immagini anche molto pietose, e invece l'idea di questo progetto era l'opposto, cioè dare voce ai bambini, farli parlare, non chiedergli soprattutto della loro esperienza di immigrazione, perché questa è una cosa che ripetiamo spesso, che è un po' l'idea della nostra trasmissione, tra l'altro. Sì, cioè di non ossessionare anche un po' con il tuo percorso, il tuo viaggio, l'esperienza di immigrazione. Io qui ho anche tantissimi aneddoti proprio raccontati da ragazze, persone che ho incontrato dove magari si trovavano a fare dei laboratori, delle attività con teatri, associazioni, progetti artistici di vario tipo, e in qualche modo venivano richiamati costantemente l'esperienza tragica del loro viaggio, no? Quasi un po' come fosse uno stigma per cui sei migrante e devi parlare della tua condizione di migrazione. E questo è proprio quello che non volevamo, cioè anzi pensare che la creatività di questi bambini poteva andare in qualsiasi direzione, anche direzioni che non avevano assolutamente niente a che fare con la loro storia di migrazione. Questo era Cioè per noi era è stato molto importante, certo, perché diciamo che diamo per scontato che ci sia già la loro nelle storie, nelle cose mm-hmm. che raccontano, mm-hmm. è ovvio che c'è già il portato di quello che hanno vissuto, perché la fantasia si è sviluppata a partire anche da quello, certo, che hanno vissuto. Per cui l'idea era non appesantire, non creare più pesantezza e sofferenza rispetto a questa situazione sicuramente disagiata, perché è ovvio che vivere in dei campi profughi non è... insomma, un'esperienza che consiglieremmo, ma insomma, è proprio facendo questo, no, che gli avete tolto un peso. Sì, diciamo che sono stati laboratori dove si è riso un sacco, ci si è divertiti, questo è. Poi ecco, Letizia forse ha altri aneddoti rispetto a quello che dicevo dei campi, forse la storia che racconti spesso delle associazioni che... Ah, sì. Sì, no, chiaramente fare anche dei laboratori soprattutto all'interno dei campi è stato già di per sé una cosa positiva, perché uno dei problemi dei campi profughi è il fatto che ci sono pochissime attività organizzate e pochissime occasioni per i bambini di svagarsi anche, per cui sì, giocano tra di loro, se associazioni ONG autorizzate ad entrare nei campi portano loro dei giochi, hanno a disposizione qualcosa, ma altrimenti chiaramente le opportunità anche per uscire un po' da quel contesto così, così pesante sono pochissime. Non c'è un'organizzazione di attività? No, o comunque quelle che ci sono sono poche, e spesso questo è appunto il punto centrale, fatte male, nel senso che ci raccontavano dei migranti a Lagadichia una sera in cui eravamo andati a fare un incontro con loro, che da poco era arrivata una nuova associazione umanitaria spagnola che aveva deciso di organizzare, appunto era lì per organizzare delle attività per i bambini, cosa che tra l'altro loro stavano già facendo in maniera, diciamo così, auto-organizzata, perché molti dei migranti che si trovavano in questo campo sono educatori e erano già abituati a fare attività proprio all'interno dei campi profughi in Siria con i profughi palestinesi, e quindi avevano cercato di riproporre attività simili, stavolta però tra di loro nei campi greci. È arrivata questa nuova ONG che ha in qualche modo imposto le proprie di attività, assolutamente però fuori da qualsiasi consapevolezza di cosa sta avvenendo anche proprio nella testa dei migranti nel momento in cui si trovano in un campo profughi, e quindi avevano organizzato in particolare come prima attività un laboratorio teatrale che era culminato con una rappresentazione teatrale di fronte a tutte le famiglie di questi bambini con cui era stato fatto, e si è poi scoperto lì sul palcoscenico che il tema della recita era riproporre lo scontro tra il Free Syrian Army e l'esercito di Assad con proiezioni di bombardamenti e sullo sfondo, e i bambini che dopo mesi di lavoro fatto dagli altri migranti per cercare di farli uscire anche da giochi violenti eccetera, quindi finalmente i bambini disegnavano dei paesaggi, dei fiori eccetera, per settimane dopo questa rappresentazione teatrale erano tornati a giocare con le pietre e quindi nuovamente ricaduti in tutta una serie anche proprio di dinamiche psicologiche sicuramente non positive e causate da chi era lì in realtà in teoria per invece dare un po' di ossigeno a una situazione del genere, per cui sicuramente questi laboratori hanno cercato invece di intervenire in un altro modo. E nulla, stavamo pensando di leggere, sì, uno dei racconti, racconto di Amanda, che è questa ragazzina curda siriana che viene da Kamishlo, e in realtà sono lei e la sorella che hanno scritto due dei racconti presenti nel libro, e non ricordo se è Amanda o Evelyn, ma una delle due aveva una gran passione per la matematica, e questa cosa mi aveva stupito molto, questa bambina piccola che mi diceva voglio diventare maestra di matematica da grande. E queste bambine appunto che ho conosciuto a Capodanno, e tra l'altro ci sono una serie di aneddoti, uno in particolare poi ve lo racconto dopo aver letto la storia di come è andato il momento della creazione appunto, sì, del racconto. E questo racconto si intitola Mamma Anatra e la casa di cioccolato. Un bel giorno Mamma Anatra e il suo piccolo decisero di venire a passeggiare nella città di Salonicco. Erano molto felici. Mamma Anatra spingeva il passeggino del piccolo e, mentre camminavano, la gente del paese si fermava e diceva «Che bella mamma anatra con il suo piccolo!» Fino a quando passò un uomo e disse: «Che bella mamma anatra! Voglio che voi diventiate i miei animali domestici!» Ma mamma anatra rispose: «No, io non sono l'animale domestico di nessuno! Io sono anatra di me stessa!» E diede uno schiaffo all'uomo che voleva trasformarla in un animale domestico. Continuarono a camminare ancora un po' per la città fino a quando decisero di andare al supermercato per mangiare del cioccolato. Al piccolo anatroccolo piacque talmente tanto che ne mangiò molto e si sporcò tutto. Così la madre gli disse che doveva lavarsi per bene, ma appena dopo aver fatto il bagno, il piccolo si sentì tanto infreddolito. «Ho bisogno di una casa per il mio bambino», pensò mamma anatra. E così, con tutto il cioccolato che avevano portato dal supermercato, mamma anatra costruì una casa fatta anche di dolci e caramelle. Le persone che passavano per quella strada cominciarono però a mangiare la casa di cioccolato che mamma anatra aveva fatto. «Cosa sta succedendo?» pensò mamma anatra e uscì in strada per vedere. «Smettete di mangiare la nostra casa, il mio piccolo ha freddo!» e diede uno schiaffo alle persone che stavano mangiando il cioccolato. Così mamma anatra prese il resto del cioccolato che aveva portato dal supermercato e ricostruì la casa e visse felice con il suo piccolo nella casa di cioccolato che fecero a Salonicco. Quindi insomma no, abbiamo scelto questo racconto anche perché in qualche modo racchiude una serie di elementi legati proprio a questo progetto, in particolare la questione abitativa e il bisogno di una casa che questi bambini sentono come urgentissimo. Anche perché Salonicco sarà piena di case di cioccolato, immagino. Sarebbe molto bella, è già una città molto bella e se fossero di cioccolato sicuramente i bambini sarebbero stati ancora più contenti. Evelyn e Amanda, tra l'altro, adesso, almeno fino a quando io le ho conosciute, e vivevano in una casa che è stata presa in affitto attraverso un progetto abitativo di una ONG italiana. E quindi non stavano più vivendo. Le ONG italiane funzionano, potremmo dire. Ogni tanto. Di Maio, per esempio. Sì. Sì, sicuramente in questi casi sì. No, sì, esatto. La polemica si riaccende, in questo caso assolutamente sì. E, erano state ai domeni fino allo sgombero, quindi fino a giugno, e poi appunto in un campo profughi, finché tramite questo progetto e tramite l'aiuto di queste reti di solidarietà che a Salonicco stanno funzionando benissimo, devo dire, si sono finalmente trovate in una situazione migliore sicuramente di quella del campo, e hanno potuto anche far vedere a noi tutta la creatività che avevano da regalarci. E no, l'episodio divertente è che mentre stava raccontando la storia erano appunto Evelyn e Amanda insieme, e quando a un certo punto Amanda doveva dire che mamma anatra dava lo schiaffo, si è girata verso la sorella e le ha dato uno schiaffo. E quindi c'è stato questo momento di: no, aspettate un attimo, non fatevi del male, bambine. Però erano molto entusiaste di questa storia e mi hanno fatto vedere il libro con grande orgoglio, grande gioia. Beh, ormai siamo alla fine, però una cosa l'ho capita: le ONG fanno case di cioccolato. Non so se, gentili ascoltatori, se cosa pensiate di Di Maio o viceversa, o di quelli che mi sono contro, ma a me piacciono un sacco le case di cioccolato, si possono mordere, il problema sarà d'estate. Vedremo. D'estate però Salonicco si sta tanto bene, si può stare anche un po' fuori da queste case di cioccolato. E dove abitano i migranti d'estate? Allora, vedremo come andranno i prossimi mesi. E appunto l'anno scorso, finché non era partito questo progetto, in molti vivevano ancora nei campi profughi. Speriamo che anche grazie a questo progetto possano vivere in delle case, magari anche di cioccolato. Un cioccolato che non si scioglie col sole. E poi vabbè, magari diciamo solo che chi ci vuole sostenere, siamo poco organizzati dal punto di vista comunicativo, nel senso che abbiamo una pagina Facebook per il momento che è italiana, perché ce ne sono diverse per i diversi paesi, non tutti, ma per i diversi paesi del progetto che hanno aderito al progetto. Sono ben 12. Allora, le lingue in cui il libro è stato tradotto sono quasi sono 12, qualcuna ancora non è ultimata, però vabbè, saranno, però, 12. Insomma, saranno 12. Però diciamole. Aspetta, ve le leggo tutte. Allora, portoghese brasiliano, portoghese del Portogallo, Francia, Germania, Inghilterra, vabbè, inglese, italiano, catalano, spagnolo, russo, greco, se non l'abbiamo già detto, arabo, arabo e qualcun'altra forse ne abbiamo. Cosa ci manca? Dialetto bolognese. Dialetto bolognese. Potremmo proporlo. Curdo. Curdo credo di sì, direi di sì. Mi sa che l'abbiamo finita. Sì, olandese l'hai detto? No, olandese no. C'è anche l'olandese. C'è anche l'olandese. Mm. Ebbene sì. Comunque la pagina Facebook del Esperanto italiano, no. Quello ancora. Italiano si chiama Fiabe Migranti, Traveling Tales Fiabe Migranti, e lì insomma chi vuole saperne di più comunque ci può scrivere o per chiederci anche delle copie, perché noi ne abbiamo delle copie stampate qui a Bologna, per cui possiamo un po' distribuirle, diciamo così. Sono disponibili. Per il resto, ragazzi, altrimenti online. E domenica ci troverete a XM alle 5:30. Tra poco praticamente. Esatto. Esatto, oggi. Domenica 14 maggio. Esatto. Quindi. Cioè, tra poche ore. Tra poche ore, 5:30 ci sarà la presentazione all'interno del Olé Festival, oltre l'editoria, che è un festival appunto in particolare dedicato alle autoproduzioni in campo editoriale, quindi noi ci rientravamo a pennello. Esatto. Beh, a questo punto vi salutiamo. Grazie mille per l'invito. Grazie mille. Grazie ragazze per questo bel progetto e speriamo che i nostri ascoltatori colgano subito l'occasione sia per andare a XM a comprare le copie sia per scrivere nella pagina Facebook, che ripetiamo, Fiabe Migranti Traveling Tales, sia per contattare anche curiosità, informalmente per qualsiasi cosa. O magari per andare a Salonicco. Peña, que omina se. play.